Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 10 dicembre del 2015, 87.9 la modulazione di frequenza. Potete ascoltarci in diretta su queste frequenze oppure in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, la voce trasmissioni visionari per quanto riguarda la scaletta, e invece sull'home page c'è ascolta la diretta per appunto per lo streaming. La scaletta la trovate anche sulla pagina Facebook di Visionari, l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con Alessandro Melazzini, regista del documentario Come un fiume, The Ska Faces, presto online gratuitamente. Alessandro, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao a tutti da Monaco di Baviera. Da Monaco di Baviera. Alessandro, allora raccontaci un po' di questo progetto. Ma guarda, è un progetto che nasce tanti anni fa, in realtà ancora quando già avevo Scabadì, che era stato il primo sito di musica ska e rocksteady in Italia. Poi ho sempre pensato di fare qualcosa a video sul tema della musica ska, rocksteady, root boy, soprattutto gli skinhead, i mods, anche perché chi non conosce il tema appena sente ska, o certamente appena sente skinhead, subito pensa a Nancy Skin, cosa che naturalmente non è. E poi in effetti sono cominciato a fare documentari e così nel tempo libero mi sono messo a raccogliere del materiale. Poi per altri lavori non sono riuscito a montare il film, ma negli anni insomma avevo sempre in mente di portare a termine questo film, e poi l'ho fatto. È un film di 30 minuti, appunto si chiama Come un fiume, The Ska Faces, e racconta alcuni momenti di vita di Root Boys, Skinhead. C'è Oscar degli Statuto, ci sono gli Skinhead di Trieste, c'è anche Buona Musica e dei One Droppers. Poi il film in realtà l'avevo già finito qualche tempo fa, ma il problema dei diritti d'archivio musicali è un ginepraio pazzesco. Sono dovuto mettere a parlare con le case editrici discografiche per capire che io non ci guadagnavo niente dal film, era solo un contributo. Adesso abbiamo fatto tutto, il film è online, approvato, ed è pronto per essere mostrato via YouTube a tutti gli interessati. Però c'è un piccolo particolare, se vogliamo divertente: prima che parta su YouTube occorre che il sito Facebook del film, che è facebook.com/ come un fiume, raggiunga i 1983 likes. Per adesso siamo a circa 950, quindi ringrazio tutti gli ascoltatori che vogliono andare su Facebook e cliccare mi piace. Appena raggiungiamo i 1983 like, il film è a disposizione di tutti gratuitamente, anzi è invogliata la distribuzione, la gente lo può copiare, distribuire e farlo vedere, perché proprio l'idea di tutto è un omaggio alla musica ska, alla passione di tutte le persone, i musicisti, soprattutto gli ascoltatori insomma che la seguono, e quindi saremo ben contenti se il film verrà distribuito e copiato più che si può. Alessandro, una curiosità: geograficamente come ti sei mosso? Dove hai effettuato la tua ricerca? È stata una volata fra Torino, in realtà proprio Piazza Statuto, sede dei mods di italiani come degli Statuto, dei mods insomma del gruppo mods importante in Italia, quello che gravita intorno al gruppo degli Statuto. Poi siamo andati in un agriturismo, perché in quell'estate, quando feci alcune riprese, i mods andarono a fare un raduno mods in un agriturismo dalle parti di la Val Chisone. Poi sono andato a Milano per intervistare alcuni personaggi, e ho ripreso un festival sia a Torino che dalle parti di Milano, e poi siamo finiti per vari casi del destino a Trieste, che è una città che normalmente insomma non è che si associa molto, invece c'è una bella scena ska, e lì ho intervistato tre ragazzi, due mods e uno skin, erano degli amici. È un viaggio nel nord Italia. Il nord Italia è dovuto al fatto che appunto ero in viaggio in quelle regioni, però poi il sentimento e la passione per la musica non ha confini, quindi anche il film ha già i sottotitoli in tedesco, io vivo in Germania, e in inglese, proprio perché venga possibilmente visto e ascoltato da più persone possibili. Alessandro, per chi ci ascolta, che caratteristiche ha la musica ska? Ma direi la musica ska piace o non piace, innanzitutto, non è una di quelle cose per cui ti piace a metà. È una musica che ha un ritmo subito riconoscibile, è un ritmo in levare, a differenza appunto del rock, è un ritmo in battere che viene dai detrattori considerato un ritmo monotono. Non è monotono, è un ritmo ripetitivo in realtà, ma non monotono, anzi onirico direi. La musica ska è il nonno del reggae, tutti conoscono il reggae, meno gente conosce lo ska, pensano che sia una cosa nata dopo, invece è nata prima, è nata in Giamaica negli anni 60 ed è un mix di tante correnti, di tanti rivoli, dal burodrammin al blues, al jazz e appunto il titolo come un fiume, cioè la musica ska è un fiume che si nutre di tanti rivoli. In Italia gli ascoltatori conosceranno certamente i Blue Beetle, Giuliano Palma che fa rocksteady in realtà e insomma tanto altro, ma la musica ska è stata omaggiata da tantissimi compositori e musicisti, anche se magari non ci si penserebbe, senza dimenticare non so Amy Winehouse che ha fatto delle cover bellissime di canzoni altrettanto belle. Insomma la musica ska non è la musica che uno quando si sente una pubblicità della San Montano, del gelato, si sentono dei ritmi reggeggianti così, ecco, la musica ska ha tutta una realtà molto più profonda e interessante rispetto a quello che un ascoltatore superficiale possa pensare essere una musichetta così per ballare, farsi più salti. In realtà è una musica che esprime il sentimento di una nazione, la Giamaica che fu liberata dall'Inghilterra, esprime il sentimento di vita naturalmente perché porta a ballare, ma è anche una musica che nasce da delle povertà estreme quali i ghetti di Kingstown e i ghetti giamaicani, ed è una musica che si è trasferita in Inghilterra seguendo il percorso degli immigrati giamaicani che sono andati in Inghilterra, si è fusa con i ragazzi della classe proletaria inglese che ascoltavano Loi, e quindi i primi ascoltatori dello ska in Europa sono stati gli skinhead appunto, che poi hanno sentito lo skinhead reggae, e poi ha avuto tutto un suo percorso affascinante. Gli ascoltatori sicuramente conoscono i Madness, che sono diciamo una delle band più famose di musica ska degli anni, fine anni 70, però sì. Appunto la musica ska non nasce in Inghilterra negli anni 70, ma nasce in Giamaica e prosegue tuttora, ed è un po' un fiume carsico, ci sono dei momenti in cui va per la maggiore, gruppi vanno fanno delle cose ska, altri anni in cui nessuno più se ne ricorda, tranne naturalmente i Due Puri, e quindi insomma sarà sempre probabilmente una musica non da domenica da Rai 1 alle 8:30, però ci sarà sempre, anche quando domenica Ino o quelle cagate di trasmissione non ci saranno più. Bene Alessandro, i riferimenti ce li hai dati, io ti ringrazio. Scusatemi il francesismo, forse in radio non dovevo. Ci sentiamo allora magari quando il progetto è compiuto e poi quando anche hai altre novità per noi. Per piacere andate su Facebook come un fiume, su facebook.com/comeunfiume e cliccate mi piace. Grazie a tutti, grazie Federico, grazie agli ascoltatori. Un abbraccio e a presto. Ciao Alessandro. Ciao. Alessandro Melazzini, regista del documentario Come un fiume, The Ska Faces. Siamo in collegamento con Gerardo Casiello per parlare con lui del progetto musical filmico Alcuni Piccoli Film. Gerardo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. Un progetto che mi interessa soprattutto per la parte filmica, raccontacelo un po'. Allora, Alcuni Piccoli Film diciamo che è prima di tutto un disco. È un disco composto da 11 canzoni che poi ho pensato di trasformarlo in 11 piccole impressioni filmiche, proprio perché diciamo un disco tra virgolette impressionista, perché anche nella stesura dei testi diciamo sono delle impressioni appunto sulla giornata di una persona. E quindi ho cercato di tradurre in musica altrettante impressioni, cioè in linguaggio filmico altrettante impressioni della vita, della giornata di una persona. E praticamente tutto questo progetto filmico legato alla mia musica, l'ho curato insieme al mio regista e animatore modellatore 3D Giuseppe Giannattasio. Sì. E poi abbiamo coinvolto un po' di amici disegnatori, fumettisti che stimiamo parecchio, tra cui Riccardo Mannelli, Laura Scarpa, Bambi Kramer, Pier Domenico Sirianni, Zero Calcare che ha dato un piccolo contributo, poi Stefano Argentero e Amedeo Nittemo. Senti, si tratta di 11 clip se non sbaglio, ricordo bene? Sì, sono 11 clip video e tra l'altro ognuna è trattata con un linguaggio filmico diverso, che va dal matte painting alla stop motion al time lapse e all'animazione. Loro hanno avuto da te una traccia indicativa e poi si sono mossi liberamente, immagino. Ma in realtà no, in realtà ho lasciato spazio agli artisti di interpretare un po' la mia musica. Si sono scelti i pezzi che più gli erano congeniali e poi hanno fatto, insomma, hanno lavorato secondo il loro estro. Senti, ci sono, allora, immagino vari formati da quanto tempo a quanto tempo e poi quali tecniche di disegno hanno utilizzato? Beh, insomma, ognuno ha rispettato, per esempio Laura Scarpa, con Laura Scarpa che è un'illustre illustratrice, disegnatrice, fumettista, lei, praticamente con lei abbiamo utilizzato delle sue tavole. Sì. Che erano, abbiamo utilizzato un'ottantina di tavole. In realtà il processo è stato inverso di quello solito che si fa per una clip video, da cui uno parte dallo storyboard, scrive una sceneggiatura, poi fa lo storyboard e poi va a realizzare i disegni. Per questo, insomma, noi abbiamo fatto proprio tutto il contrario. Io e Giuseppe Giannattasi abbiamo scelto tutti i disegni del suo blog, che è Caffè a Colazione. Laura poi, insomma, ci ha passato le sue tavole ad alta risoluzione, poi lì c'è stato tutto un'opera di scontornamento e creare la storia, il viaggio è stato creato attorno agli elementi pittorici, quindi alle tavole. Sì. Senti, no, ti chiedevo quant'è la durata di ogni singola clip. La durata di ogni brano, quindi okay. Che vanno dai 3 minuti ai 3 minuti e mezzo, 4, poi c'è anche un brano un po' più lungo che dura 6 minuti e 10. Sì, sì, sì. Senti, e questi lavori li hai messi online, se non sbaglio? Sì, perché tutto il progetto nasce con innanzitutto si tratta di un'autoproduzione. Sì. E poi la distribuzione dell'intero progetto, quindi delle canzoni associate ai video, sono gratuite, sono gli stessi utenti della rete che io condivido un brano a settimana sul mio canale YouTube, sui miei canali social, e poi è la rete, sono gli utenti del web che piano piano condividono e distribuiscono e fanno conoscere le canzoni e i video. Senti, quindi su YouTube basta cercare il canale Gerardo Casiello e compare. Sì. Tutto il materiale. Sì, poi c'è anche il mio sito internet gerardocasiello.it, dove lì c'è proprio tutta la raccolta, però anche sul canale YouTube si può vedere tutte le uscite e poi seguire quelle che usciranno. Bene, Gerardo, allora i riferimenti ce li hai dati, io ti ringrazio, è stato un piacere e ci sentiamo per le prossime novità. Ok, grazie a te e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao Gerardo. Ciao, ciao. Gerardo Casiello, il musicista Gerardo Casiello, sul suo progetto musical filmico Alcuni piccoli film. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì tra le 14 e le 15. E ci arriva la chiamata di Niccolò Bruna, regista del documentario Piccole Bugie Pietose, che sarà alla prima edizione di questo Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, Immagini della Realtà a Milano. La proiezione è prevista per l'11 dicembre, domani venerdì. E Niccolò, ben ritrovato su queste frequenze. Grazie Federico l'invito. Allora, mi interessava il progetto, di cosa si tratta, raccontalo a chi ci ascolta, Niccolò. Sì, molto volentieri. Io ho realizzato questo, un documentario a Cuba, che è un film in cinema verité, un film di osservazione ma anche di grande partecipazione, è molto narrativo, non ci sono grandi spiegazioni, voice over o contestualizzazioni della situazione, anche se la situazione ha una sua attinenza con i fatti dell'attualità, perché racconta attraverso la storia di un singolo personaggio il ben più ampio e rilevante tema dei rapporti tra Stati Uniti e Cuba e della difficoltà, a volte impossibilità, che i cubani hanno di lasciare l'isola, di viaggiare liberamente o di avere un visto per gli Stati Uniti. Senti, sei stato lì quanto tempo? Raccontaci un po' le modalità di lavoro. Beh, in tanti mi chiedono sempre che ci faccio io a Cuba, ma io che ho alle spalle già qualche documentario, ho studiato a Cuba cinema e mi sono laureato sul cinema cubano, quindi sì. La mia è una frequentazione di lungo corso, di anni di osservazione, e dopo anni di questa osservazione ho notato che qualcosa si stava veramente muovendo nella società cubana e nelle aspettative e nelle speranze dei cubani stessi. Questa tensione poi è maturata in un primo viaggio che abbiamo fatto a inizio 2013, quando si stava entrando in vigore la riforma migratoria che il governo cubano appunto inaugurò in quell'occasione, permettendo a molte persone che non avevano mai avuto accesso al visto, accesso diretto perlomeno al visto, di viaggiare. E questo, in quel frangente incontrammo Lourdes, che è il personaggio, il protagonista del nostro film di Pequeñas Mentiras Piadosas, Piccole Bugie Pietose, perché mi appostai per giorni nella piccola piazza che è chiamata Parque della Speranza, il Parco della Speranza, che è una piazzetta che sta dietro a quella che faceva da ambasciata americana, il famoso edificio di sessione di interesse degli Stati Uniti a La Habana, che è sul Malecón. E su questa piazzetta dagli anni 70 si affollavano quotidianamente 400 persone pronte a sostenere l'intervista per il visto per gli Stati Uniti. Lourdes è particolare, non era lì per fare la coda per l'intervista per il visto, ma bensì per aiutare quelli che la facevano, perché da un piccolo garage ha ricavato un ufficio che lei chiama l'Officina dell'Amor, dove accoglie le persone che devono fare la burocrazia sostanzialmente per i visti, e insieme a questa burocrazia lei fornisce un training, un orientamento su quali piccoli accorgimenti e anche quali piccole bugie pietose, appunto, e da qui il titolo del film, quali piccole bugie pietose dire per avere maggiori possibilità, chance di essere approvati. E quindi le persone che la visitano aprono, oltre che la loro storia personale, anche un po' il loro cuore, perché Lourdes, oltre ad essere una persona straordinaria, è anche un personaggio molto empatico, riesce a far parlare tutti e mette tutti in grande confidenza, e le persone che la incontrano escono molto più alleggerite e con un sorriso sulle labbra. Quindi per noi aver trovato lei permetteva di, attraverso un personaggio solo, di raccontare una storia molto ampia e quasi universale, e anche molto umana e simpatica, perché è un film che ha come sfondo un dramma, ma poi è declinato in questa umanità quotidiana cubana che è stupenda, con molta ironia, con simpatia, con partecipazione, senza quella pesantezza che il dramma potrebbe far ritenere. Senti, rispetto alle cose che dicevi all'inizio sulle curiosità della tua ricerca, ovvero sia la questione dell'embargo degli Stati Uniti e poi le trasformazioni in atto nella società cubana, soprattutto rispetto alla possibilità di espatrio, ecco, su questi due elementi cosa hai scoperto nella tua ricerca filmica che magari ti ha incuriosito di più? Beh, noi poi l'abbiamo seguita per oltre un anno, perché sì. Lourdes al tempo stesso, oltre ad essere appunto quella che aiutava gli altri, lamentando di non essere aiutare gli altri, dice io faccio bere tutti, ma non sono mai scusate, non sono mai riuscita io stessa a bermi un bicchiere d'acqua, perché lei in quest'anno della nostra pedinamento, la nostra partecipazione alla sua vita, abbiamo atteso che lei stessa sostenesse l'intervista per il visto che ha avuto negli ultimi decenni tutti i familiari, suoi familiari hanno lasciato Cuba e lei non è ancora riuscita a visitare per esempio la madre che a Miami era in condizioni di salute un po' molto precarie. Mm-hmm. E quindi lei stessa aspettando questo visto che andrà poi per il quale andrà a fare l'intervista. In un anno di osservazione sul campo abbiamo notato che effettivamente è un processo storico già iniziato nel 2008 quando Raul Castro è venuto al potere. Le aperture hanno portato nella vita quotidiana ai cubani molte differenze, per esempio quella del mercato libero in vari settori, quella della come nel caso di Lourdes dell'attività imprenditoriale privata, come nella ampia tolleranza verso minoranze o verso gli omosessuali, gay, come nel caso di Lourdes, perché pur avendo avuto un figlio è una lunga storia come giovanile, come testimone di Geova, lei poi è scappata con un'altra donna da giovane e da allora ha trovato il suo orientamento sessuale, quindi raccontiamo anche una parte molto intimamente, una parte molto molto diciamo inedita della vita quotidiana cubana. Mm-hmm. Questi cambiamenti sono maturati dal 2008 fino alla riforma immigratoria del 2013, sono chiaramente culminati nell'annuncio di dicembre di un anno fa, dicembre 2014, da parte Obama di voler riallacciare le relazioni diplomatiche interrotte 50 anni prima, e culmineranno senz'altro in quello che speriamo avvenga presto, cioè lo smantellamento di questo vergognoso bloqueo, l'embargo che è da 55 anni ormai non permette a Cuba ai cubani di vivere in un modo dignitoso o come in questo caso di poter per ritrovare i propri parenti emigrati mm-hmm. negli Stati Uniti con maggiore facilità. Sì. E una parte dei problemi di Cuba sono anche legati appunto a questa all'imposizione di questo embargo, non tutti, ma una grossa parte. Quindi quello che abbiamo notato è qualcosa che è ancora in divenire, non ancora culminato in quello che sarà una maggiore libertà o una normalità della situazione cubana, però sicuramente i semi sono stati gettati. Mm-hmm. Niccolò, allora venerdì, domani 11 dicembre sarà proiettato a Milano al Festival Visioni dal Mondo. Ci dai un sito internet, una pagina Facebook di riferimento per saperne di più anche magari rispetto a un calendario di proiezioni? Sì, su Facebook c'è una pagina del film dove pubblichiamo tutto, anche questa intervista e altri materiali. Potete trovare il trailer sia su Vimeo che su questo Facebook. E Facebook è appunto Pequeñas Mentiras Piadosas. Cercando questo titolo, Piccole Bugie Pietose, si arriva alla pagina del film che è stato realizzato. Vorrei solo ancora dire questo, ringraziare per il supporto la Film Commission del Piemonte e la Regione Piemonte, che attraverso questo fondo del Piemonte Dauphin Fund ormai hanno dato sostegno a innumerevoli documentari tra i quali questo e anche a questo nuovo festival Visioni dal Mondo, che è curato da Fabrizio Grosoli, che essendo una prima a una prima edizione ha un porta con sé l'attenzione al prototipo, un po' l'aspettativa di vedere come va qualcosa di nuovo, ma anche questa attenzione all'oggetto che viene curato e mostrato per la prima volta. Io per questo ho aderito al Festival di Milano, perché credo che il documentario e in genere il cinema indipendente, soprattutto se realizzato in questi termini molto rischiosi e rocamboleschi, debba essere accompagnato con un'estrema cura e con grande cautela, mettendoci sempre la faccia. Grazie. E allora domani sera a Milano alle 21:30 all'Unicredit Pavilion di Piazza Gaulenti aspetto il pubblico milanese e ringrazio te e gli ascoltatori per questa chiacchierata, Federico. Niccolò, un abbraccio e a risentirci alla prossima. A presto. Ciao, ciao, ciao. Niccolò Bruna, regista del documentario Piccole bugie pietose a Visioni dal mondo, immagini della realtà, prima edizione del Festival Internazionale del Documentario a Milano, proiezione di domani, venerdì 11 dicembre. Cristina Mantis, regista del documentario Redemption Song, anche questo a Visioni dal Mondo, prima edizione del Festival Internazionale del Documentario a Milano, la proiezione è per sabato 12 dicembre. Cristina, ben ritrovata a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, ciao. Era un ciao po' di tempo. Sì, sono sempre felice di essere su Radio Onda Rossa. Ah, che ti bello. Adoro. Allora, Redemption Song, si parla di migrazioni, raccontaci questa storia, Cristina. Guarda, diciamo il documentario è la storia di Sisto Co, che è un rifugiato politico che è arrivato in Italia dalla guerra in Libia e venendo qui si è un po' reso conto anche della condizione difficile che attraversano tanti suoi fratelli immigrati e non solo richiedenti asilo. E comprende che c'è un po' un sogno finto in molti di quelli che però partono magari non necessariamente spinti dalla guerra, ma per il sogno di una vita migliore. Allora il suo desiderio è quello di tornare un po' dalla sua gente, parlare, raccontare di quello che hanno visto i suoi occhi, delle cose che avverte, della voglia di un riscatto che invece si potrebbe raggiungere tutti insieme in Africa. Ed è per questo che magari si organizzano delle proiezioni dove si proietta il film, quindi c'è in qualche momento anche un film nel film, no? che avviene, perché c'è la proiezione di queste immagini che in parte ha anche girato lui. Senti, come hai deciso di filmare tutta questa vicenda umana? Guarda Federico, io ero partita per fare un documentario sui centri d'accoglienza per richiedenti asilo. Sì. Sinceramente mi sono resa conto dopo un po' che il vero motivo inizialmente è sempre quello di cercare un incontro con l'altro. Sì. Cioè io ho sempre sentito che questa discriminazione verso il nero, fra parentesi, non è mai del tutto superata, quindi la voglia era innanzitutto quella di empatizzare col mondo nero che ci circonda, quello vicino e anche quello lontano. Poi però sono andata un po' oltre, nel senso che ho voluto raccontare anche della voglia mia personale, ma che è un po' quella di tanti, di che l'Africa insomma ritrovi un suo orgoglio e sono incontrato un africano che aveva lo stesso desiderio, cioè quello di cercare a modo suo di dare un piccolo contributo. Cristina, mi sa che ti abbiamo perso, riprovo a chiamarti. Ecco, speriamo, riproviamoci. Senti, la curiosità rispetto al titolo Redemption Song, come mai? Redemption Song l'origine dalla grandissima Redemption Song di Bob Marley, che è stata una potente fonte di ispirazione, e quindi la voglia, no, di questo canto di redenzione che il documentario, il protagonista, tutti noi sogniamo per l'Africa, perché insomma chiama quella terra e non siamo pochi, desidereremo questo. È chiaro però che poi c'è anche bisogno di un esame di coscienza, perché puntare dita a destra e a sinistra non è quello che serve a nessuno. Serve anche che la gente d'Africa faccia un po' una riflessione su quelle che sono dei limiti che poi portano alle conseguenze che conosciamo. Quindi innanzitutto la cessazione dei conflitti, almeno quelli che si possono evitare a livello etnico, no? A livello religioso. Le guerre che impoveriscono l'Africa e a cui l'Occidente contribuisce anche ovviamente andrebbero limitate, ma ognuno, se ciascuno poi nel suo piccolo cerca di ridurre la conflittualità, l'unione che ne segue porta poi ad una crescita. Allora diciamo che insieme al protagonista giriamo dove possiamo per cercare di lanciare un messaggio di pace. Senti, allora la proiezione è per sabato a Milano, sabato 12 dicembre. C'è un sito internet, una pagina Facebook di Redemption Song per saperne, sì, di più? C'è una pagina Facebook, la Movimento Film di Mario Mazzarotto, Emanuele Nespeca, la Solario Film, quindi anche lì si possono trovare delle informazioni che hanno prodotto il film, cui sono grata, perché poi ovviamente anche questo va detto, che ci sono delle produzioni che sostengono questi progetti, ed è molto importante, perché sennò altrimenti non avremmo voce. Va bene, allora Cristina, un abbraccio e ci sentiamo presto. Grazie tantissimo e tanti saluti a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Rossa, ok? Ok, alla prossima. Grazie. Cristina, ciao. Alla prossima, ciao, grazie. Ciao, ciao. Cristina Mantis, regista del documentario Redemption Song, a Visioni dal Mondo, Immagini della Realtà, primo festival internazionale del documentario a Milano, proiezione sabato 12 dicembre. Egidio Eronico, regista del documentario Nessuno mi troverà, anche questo a Visioni dal Mondo, la proiezione è per domenica 13 dicembre. Così abbiamo seguito tre lavori per questa prima edizione del Festival Internazionale del Documentario. Egidio, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Ben trovati. Allora, raccontaci un po' di questa storia, a chi si riferisce questo titolo? Nessuno mi troverà è un film diciamo dedicato a figura e al lavoro di Ettore Majorana. Sì. Così insomma un film che ho covato a lungo, anni di ricerche, appunto di materiali in parte ancora forse oggi inediti, e per restituire appunto il ritratto di una persona forse troppo chiacchierata, ma mai davvero conosciuta fino in fondo. Ecco, soprattutto per chi ci ascolta, per i più giovani, che cosa ha rappresentato per l'Italia, ma non solo per l'Italia, la figura di Majorana? Diciamo dal punto di vista scientifico molto, moltissimo. Se ne capisce oggi la portata, diciamo, fino in fondo. In netto anticipo sui tempi, per esempio per quello che riguarda la fisica dei neutrini, e contributo notevolissimo, insomma, sempre dal punto di vista scientifico, dal punto di vista fisico, ma anche matematico, perché Ettore Majorana era anche un abilissimo matematico. Poi c'è, diciamo, una componente più di ricerca, più filosofica e interpretativa, e poi non ultima appunto la sua dimensione di uomo, di intellettuale, con le scelte che conosciamo o che conosciamo in parte, appunto, qual è quella principale, appunto quella di scomparire il 25 marzo del 38. Egidio, in base a questa scoperta, questa ricerca che hai fatto, quali sono state, ecco, le scoperte più interessanti rispetto al materiale a cui hai attinto? Beh, fondamentalmente una, diciamo, la principale è che Majorana non è il Majorana che, diciamo, più o meno divulgato o conosciuto dai più, è in realtà una figura poco veritiera, nel senso che corrisponde a una sorta di canone che lo vede appunto un personaggio piuttosto cupo, un misantropo, e una persona sempre molto molto distante, chiuso nei suoi rovelli, nelle sue ricerche scientifiche, cosa che invece con una ricerca attenta, paziente, dimostra anzi il contrario. E sicuramente sappiamo oggi meglio che Ettore Majorana non è stato esattamente uno dei cosiddetti ragazzi di via Panisperna. Frequentava l'istituto di fisica di via Panisperna in parte, più che altro per fare visita alla biblioteca e aggiornarsi dal punto di vista scientifico attraverso le riviste di fisica e di matematica che lì provenivano da tutto il mondo, e ovviamente alcuni scontri e anche sostanziali con Enrico Fermi, e poi ovviamente tanto altro, insomma, le delusioni anche dal punto di vista universitario, e perché va detto che, insomma, Majorana, che viene in genere presentato unanimemente come un genio, un personaggio irripetibile nel panorama della fisica, nel panorama scientifico tout court, però stranamente quest'uomo qui, che appunto si diceva fosse della levatura di un Galileo o di un Newton, però per esempio quest'uomo non è stato mai dato un vero incarico universitario. E quando ha vinto il concorso nel 37 per la cattedra di fisica, lui concorreva per la cattedra di fisica a Palermo, e si viene, insomma, in un qualche modo si vede estromesso dal concorso, però al tempo stesso poi viene fatto professore per chiara fama, ma a Napoli. Insomma, tutta una serie di contraddizioni anche un po' apparentemente inspiegabili. E appunto l'idea, appunto, che mi sono fatto, quella che ci si può fare addentrandosi un po' più a fondo nella vicenda di quest'uomo, è che fosse anche per il suo tempo un vero outsider. Ecco, rispetto alla sua scomparsa, a cui sembra far riferimento evidente il titolo del documentario? Beh, rispetto alla sua scomparsa, ovviamente, nonostante gli sforzi di tanti, più o meno logici, più o meno accettabili, nel senso che poi, voglio dire, si è detto di tutto e il suo contrario su Majorana, la cosa che sappiamo è che lui praticamente si è sottratto in qualche modo all'umano consesso, e senza veramente lasciare alcuna traccia. E è probabile che Sciascia, che ha scritto un libro importante sulla figura di Majorana, sapesse di più di quanto non espresso nel libro, ma che, insomma, in qualche modo per un patto anche di lealtà, e per magari probabilmente forse per voler difendere la scelta individuale di una persona, e non ha svelato di più. E Fatto sta che Majorana a un certo punto ha ritenuto di eclissarsi, anche perché forse, voglio dire, la fisica o comunque l'indagine scientifica, la ricerca scientifica a cui aveva creduto fino in fondo, a un certo punto gli era sembrata una sorta anche di isola inadeguata. Quindi le scelte sono profonde, sono consapevoli e anche molto intime. E il mio film, però, insomma, io con il film cerco soprattutto, siccome non è facile spiegare che cosa abbia spinto Majorana a fare quello che ha fatto, tranne fare delle congetture, o col film però ho cercato in qualche modo di demolire tutte le ipotesi che invece vengono fatte sulla sua scomparsa, no? Quindi dalla fuga in Argentina e addirittura quella in Germania per mettersi al servizio delle armi del Terzo Reich, delle ricerche militari del Terzo Reich, il suo filo nazismo addirittura per alcuni, e così niente, sulla base di una ricerca documentale ho cercato di smontare un po' tutte queste fantasticherie sul personaggio per restituirgli un profilo più veritiero. Bene Gidio, allora la proiezione sarà a Milano domenica 13 dicembre. In rete ci sono spazi dedicati al tuo lavoro? E cominciano ad esserci adesso. Ok, quindi immagino sui social, su la pagina anche dell'Istituto Luce, se non sbaglio. Sì, penso di sì. Bene, Egidio, ti ringrazio, un abbraccio, a risentirci alla prossima. Io ringrazio voi, a presto. A presto. Grazie ancora. Egidio Eronico, regista del documentario Nessuno mi troverà, a Visioni dal mondo, immagini della realtà, prima edizione del Festival Internazionale del Documentario a Milano, proiezione per domenica 13 dicembre. Ritroviamo Valerio De Paolis di Cinema Distribuzione per parlare del film Le ricette della signora Toku, in uscita in sala oggi giovedì 10 dicembre. Valerio, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a voi, grazie della vostra fedeltà, che quando esce un nostro film ci chiamate e ci fate molta gioia e molto piacere. Beh, quando c'è qualità di mezzo noi ci... Adesso non voglio essere presuntuoso, ma i nostri film sono tutti di qualità. Certo. In un modo o nell'altro, adesso non voglio esagerare, però è un po' la verità. Sì. Senti Valerio, allora, questo film, raccontaci un po'. Sì. L'avete visto? Vi è piaciuto? Che cosa ne dite voi? Allora, io intanto te ne farei parlare, l'ho visto e poi ho delle domande proprio sul film. Beh, insomma, è una storia abbastanza semplice. La storia di una... Intanto bisogna premettere che questo film ha una ragione d'essere perché è girato in Giappone, nel senso che la stessa storia ambientata in un altro paese probabilmente perderebbe di senso e di valore. Sì. Perché il Giappone ha delle sue ritualità, dei suoi modi di rispettare la vita, la natura, i rapporti, le persone, che rendono questa storia estremamente commovente, poetica, proprio perché è ambientata lì. Quindi direi che questo è uno degli elementi principali. Sì. E poi è la storia di questa vecchia signora che ha sempre vissuto per una ragione o per l'altra quasi un po' da sola, che sente la voglia di, a un certo punto della sua vita, di rimettersi un po' in gioco, siccome è una bravissima cuoca nel senso che fa questi dolci meravigliosi. Entra in contatto con un giovane che ha un bar, che ha un piccolo ristorante, e gli chiede di poter collaborare. E così il giovane all'inizio un po' dubita, così, perché lei è un po' anziana, poi insomma lei gli fa assaggiare i suoi dolci, lui li trova meravigliosi, e da lì parte una grande relazione quasi sentimentale, ovviamente non sentimentale nel senso dei sentimenti e basta, tra lei e lui. Poi c'è una giovane ragazza, insomma un film che racconta i sentimenti delle persone comuni. Sì, sì, sì. Ed è molto molto poetico e molto, non lo so, a me è piaciuto moltissimo, quindi io ovviamente non ne posso che parlare bene, certo. Però è uscito oggi, ha avuto critiche molto buone da tutti i giornali italiani, quindi si vede che il mio sentimento è stato condiviso anche dai giornalisti, speriamo poi anche dal pubblico. Sì, io l'ho visto e l'ho apprezzato. Due brevi considerazioni ti farei, Valerio. Uno rispetto alle modalità di messa in scena, un altro rispetto alle tematiche. Le tematiche sono due fondamentali tematiche dei nostri giorni, che riguardano il pregiudizio e l'esclusione. E rispetto invece alle modalità di rappresentazione c'è un pudore, un lirismo del tutto nipponici, di effetto sicuramente. Ma è un po' proprio per quello che all'inizio ho detto che un film che se non fosse stato girato in Giappone sarebbe stato diverso, perché sì. Il Giappone privilegia le relazioni, la formalità, il rispetto delle persone, soprattutto il rispetto, no? E quindi questo è un film dove lei rispetta la natura, rispetta il passare degli anni, rispetta il passare del tempo, si mette in gioco con un minimalismo, con una piccola ricerca dei significati profondi della vita che rende il film molto diverso da quello che si vede al cinema e appunto secondo me poetico e commovente, ma è un film molto originale. Valerio, rispetto invece alla regia, come avete conosciuto questo lavoro? La regista sì. Non è nuova, sì. È una Naomi Cavase, è una signora di una 45ina d'anni, è una bellissima donna, ha fatto almeno 4-5 film in Giappone, due dei quali sono andati a Cannes, uno ha anche avuto qualche anno fa il premio speciale della giuria, quindi comunque è una regista nota, è una regista famosa che ha girato tutto il tour, ha fatto tutto il tour dei festival internazionali e quest'anno era a Cannes e inaugurava la sezione Certain Regard, che vuol dire un certo sguardo. Quindi effettivamente loro mettono in questa sezione tutti quei film che hanno uno sguardo particolare sulla vita e su certe storie della vita, e quindi questo film è proprio perfetto per quella sezione lì. Da oggi ha avuto successo, molto successo a Cannes. Bene, da oggi nelle sale in quante copie, Valerio? Siamo usciti solamente con 18 copie perché vogliamo uscire con le altre copie più vicino al Natale. Bene. Diciamo che siamo usciti con 18 copie, una specie di aperitivo, proprio per permettere al pubblico di alcune città di gustare questo film e di preparare il terreno per un'uscita più grande verso Natale. Allora Valerio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, grazie della vostra attenzione, arrivederci. A presto. Buongiorno. Ciao. Valerio De Paulis di Cinema Distribuzione sul film Le ricette della signora Toku, in uscita in sala oggi giovedì 10 dicembre. Patrizia Salvatori di Cineclub Alphaville o Alphaville Cineclub sulla 12ª edizione dello Script Film Fest del Pigneto dal 14 al 20 dicembre, quindi la prossima settimana. Patrizia, ben ritrovata, raccontaci di questa nuova edizione, 12ª addirittura. Sono contentissima di sentirti, Federico, un saluto a tutti. Sì, questa è la 12ª edizione e per l'occasione abbiamo anche, diciamo, un po', come dire, asciugato il titolo di questo nostro festival, che in origine si chiamava il Festival delle Scritture Cinematografiche, ma che obiettivamente, proprio per motivi anche di diciamo di pomposità, abbiamo voluto restringere un po', e che da quest'anno si chiama Script Film Fest, sempre del Pigneto, giunta alla 12ª edizione. È un festival teorico. Federico, come sempre tutti nelle nostre edizioni di questo piccolissimissimo festival, che però si ingegna di raccontare attraverso temi sempre, diciamo, importanti di anno in anno e sempre contemporanei al momento appunto in cui esce il film, il nostro piccolo festival, sistemi che in qualche modo riguardano il cinema, le scritture per il cinema, tutto quello insomma che viene prima e dopo l'immagine in movimento, cioè tutto quello che viene prima e dopo quello che poi noi vediamo sullo schermo. Quest'anno abbiamo deciso di occuparci in particolare di un tema che forse è proprio un tema diciamo che in qualche modo è atmosferico, è profondo e si sente molto in questo periodo storico della nostra vita umana, che è appunto il rapporto tra il cinema e il sacro, ma un rapporto che noi abbiamo voluto declinare in tutte le possibilità vero esistenti, e soprattutto con l'idea che il sacro non voglia per forza essere collegato esclusivamente al rapporto con tutti i tipi di religione o con una sola religione, ma soprattutto alla ricerca dell'equilibrio di sé, questo diciamo attraverso chiaramente il naturale, il sovrannaturale e tutto quello che compete appunto a chi lo sta cercando. Quindi il nostro è un festival piccolo ma molto denso, dove ci saranno anche ospiti importanti, soprattutto docenti universitari che in qualche modo sono legati alla sociologia, ad esempio Mauro Antonio Fabiano, oppure appunto saggisti o personaggi del mondo della cultura anche romana come Rosario Tronnolone, Liliana Cantatore, insomma, e Loris Luciani, che è un teologo e che quindi si occuperà anche di settori particolari di questa ricerca di ognuno di noi del proprio equilibrio attraverso il naturale e il sovrannaturale. E proponiamo ovviamente una serie di rappresentazioni cinematografiche che in qualche modo raccontano questa ricerca, di questo labirinto attraverso il quale la storia dell'uomo cerca di capire come uscirne, come appunto arrivare a se stessi nel rapporto con gli altri. Abbiamo una serie di pellicole di tutto rispetto, che però sono veramente a 360 gradi a ventaglio sul tema, come appunto vi raccontavo. Quindi abbiamo per esempio il famoso film importantissimo della storia del cinema su queste riflessioni, l'Asino Baldassar di Robert Bresson, il film del 66 sulla disgrazia del povero asino che viene maltrattato da tutti e che muore appunto all'interno di un gregge di pecore, uno dei film più poetici su questi temi appunto, che e poi è stato realizzato dal grande regista francese Besson. Ma riproponiamo la visione del Settimo Sigillo di Bergman, e quindi che probabilmente molti ricordano soprattutto per la scena della scacchiera e della morte e diciamo di questa sulla situazione incredibile. Esatto, sulla spiaggia, questa situazione incredibile in cui la morte bussa dicendo guarda che ti sto aspettando. Ma non è solo un tema sulla vita, sulla morte, sul silenzio di Dio, è anche un tema, si tocca qui il tema del silenzio di Dio, ma anche dell'incomunicabilità tra esseri umani, insomma, voglio dire, ce n'è molta di materia in questi film. Abbiamo selezionato ad esempio anche Mary di Abel Ferrara, una ricerca inchiesta sulla figura di Gesù e di Maria. Abbiamo per esempio pensato di riproporre il Decalogo 1, Io sono il Signore di Otto di Kieslowski, proprio per mettere a confronto l'imponderabilità e soprattutto anche la necessità di una riflessione su Dio, su chi c'è oltre l'essere umano e su questa sfida che l'essere umano pone tra sé e il sacro, sfida che spesso però non porta ovviamente a risultati positivi se questa sfida è una sfida soltanto di vanagloria. Abbiamo proposto e riproporremo Luis Buñuel con Simone del Deserto, la figura ascetica che sta lontano da tutti e che poi viene portata improvvisamente a New York e lì non si capisce più lui stesso, perde la bussola, come potremmo dire, di tutto quello che invece ieraticamente aveva costruito da solo, stando però da solo in un alto palo praticamente. Abbiamo proposto e proporremo La Giovanna d'Arco di Dreyer, anche qui con il grande Theodore Dreyer, con grandi riferimenti con questa donna che viene vista in vari modi insomma nella storia del cinema, ma soprattutto nella storia, da santa a rivoluzionaria a quant'altro. In questo caso appunto la Giovanna d'Arco di estremo rigore non soltanto intellettuale ma anche cinematografico, che insomma penso ci farà piacere di vedere, anche proprio per comprenderne diciamo le pieghe profonde che partono dal volto e arrivano allo spettatore fin dentro l'anima, insomma con una certa sensibilità. Ma sabato per esempio del 19 dicembre faremo vedere il Brian di Nazareth, che insieme con il Sacro Graal è forse uno dei film più interessanti della filmografia di quei bizzarri esseri umani che rispondono al nome dei Monty Python, dove c'è appunto questa storia di Brian che per sua sfortuna è nato lo stesso giorno del Redentore e che a 33 anni si ritrova diciamo quasi inondato dalla folla che non si sa bene se lo voglia o lo attacchi, con una madre chiaramente che lo rifiuta. Ed è sarcastico, sarcastico a dir poco, direi un film grottesco che comunque riflette in maniera grottesca su uno dei misteri più profondi. Ma abbiamo anche qualcosa di cipriamaresco, abbiamo anche una quotidianità diciamo sacrale e ieratica che viene affrontata in un film bellissimo di Ozu che è Viaggio a Tokyo e che noi appunto riproporremo domenica. Tra l'altro tutto questo ed altro ancora è sul nostro sito www.cineclubalfavir.it e ricordo che ci saranno anche letture da Paul Schrader, il regista Paul Schrader, che nella sua tesi appunto in una delle sue dei suoi scritti legati alla sua tesi di laurea raccontò appunto che il suo punto di vista del sacro era legato soprattutto a questi grandi registi che erano Ozu, Bresson e Dreyer, e noi francamente un po' l'abbiamo seguito naturalmente. Bene, allora Patrizia, i riferimenti ce li hai dati, ricordiamo dodicesima edizione dello Script Film Fest al Pigneto dal 14 al 20 dicembre, un abbraccio e un in bocca al lupo. E Clarity, un abbraccio anche a tutti voi, Federico ti aspetto. Va bene. Ciao e a presto Patrizia. Ciao, saluti a tutti, buon pomeriggio. Patrizia Salvatori di Alphaville Cine Club. Cinzia Mascoli di Artisti 7607 per parlarci di un'inchiesta che riguarda l'IMAE. Cinzia, ben ritrovata. Ciao, salve a tutti, un po' raffreddata ma insomma spero voi no raffreddati. Noi no raffreddati. Allora Cinzia, ho letto l'altro giorno in un articolo su un importante quotidiano nazionale riguardante questa vicenda, ho detto vabbè parliamone in trasmissione visto che Artisti 7607 è spesso un nostro interlocutore e volentieri insomma ospitiamo il vostro punto di vista. Raccontaci di questa storia, di questa vicenda, Cinzia. Ma guarda, la stiamo seguendo insieme, nel senso che noi chiaramente come una collecting di artisti facciamo delle domande, le avevamo fatte a suo tempo sulla liquidazione, perché tutta la curiosità di tutti gli artisti quando è stato messo in estinzione il vecchio IMAE era sapere quegli ingenti fondi che erano rimasti nelle casse che tipo di destinazione avrebbero avuto, visto che sono soldi degli artisti. E ce lo siamo chiesti per tutti questi anni, abbiamo anche chiesto alle istituzioni, era stato detto che il residuo di questa liquidazione, il residuo della liquidazione, laddove ci fosse stato, sarebbe stato distribuito alle collecting, perché ora che non ce n'è più una e si può scegliere, principio che noi abbiamo strenuamente difeso fino a che la legge non ha chiarito che va tutelato il diritto degli artisti di scegliere a chi affidare la tutela di diritti patrimoniali privati, continuavamo a chiedere nelle varie occasioni appunto questo residuo che fine avrebbe fatto, perché gli artisti che sono iscritti con noi e che prima come tutti noi facevano capo solo a un ente ne hanno diritto come tutti gli altri. E però non è che c'è mai stata data una risposta chiara, noi le nostre domande le abbiamo fatte in tutte le sedi opportune e poi ieri chiaramente eravamo rimasti molto sorpresi quando abbiamo letto a luglio mi sembra sul sito del Nuovo IMAE che era stato fatto un accordo per cui IMAE e Liquidazione non riusciva a finire questa liquidazione perché era iniziata da 6 anni, era già costata diciamo svariate centinaia di migliaia di euro, per cui ci chiedevamo ma insomma dove sono questi soldi degli artisti. E ieri poi come dire, abbiamo letto insieme a tutti quelli che l'hanno letto il fatto che mi sembra che si faccia riferimento a questo, perché essendo un'indagine ancora in corso, quindi non è che ci sono ancora, non c'è l'esito finale, però da quello che sembrerebbe il fatto che dei liquidatori, quindi dei pubblici ufficiali che agiscono nell'interesse dei creditori, e i creditori sono gli artisti, abbiano deciso di affidare questi ricalcoli al nuovo IMAI e pagandolo per questo servizio, insomma, ci sembrava un po' un passaggio un po' difficile da capire, perché tra l'altro i soldi con cui viene pagato questo servizio che il nuovo IMAI dovrebbe fare è sottratto da quei soldi che sarebbero dovuti essere distribuiti, perché se a furia di togliere soldi per pagare alla fine non c'è più residuo, insomma, verrebbe da pensare, o comunque è molto molto ridotto. Quindi noi abbiamo solo fatto delle domande, siamo contenti di vedere che ci sono degli approfondimenti che fino adesso non c'erano stati. Noi abbiamo fiducia che questi approfondimenti portino alla comprensione delle cose che fino adesso su questa quantità di denaro grossa, perché ripeto, erano rimasti più di 130 milioni nelle casse dell'ente. A noi, agli iscritti e mandanti 7607, non risulta che siano state distribuite delle somme tali di liquidazione. A me sono arrivati 47 euro. Io sono un'attrice, ho fatto viaggi di nozze, che passa, tanto per non essere generica, cerco di essere specifica. Quindi siamo tutti così, ma più che parlare degli artisti, perché poi sembra un po' per le persone che faticano a sopravvivere, a trovare lavoro, a vedere riconosciuti i diritti, a volte molto più urgenti di questi, e io questo lo capisco, quindi ci sentiamo anche un po' a volte in difficoltà a parlare di questo, però per degli attori come Elio Germano, Claudio Santa Maria, Neri Marco Re e tutti quelli che ci mettono la faccia, ci sono centinaia di attori bravi, giovani, anziani, di media età, che non riescono a vivere, per cui io ci tengo, perché so che sia Elio e tutti gli altri hanno sempre un po' un pudore, come, perché l'articolo è stato un po' chiaramente non scelto da insomma, la scelta del giornale è stata dire i soldi delle star. Ora qui noi la battaglia che stiamo facendo non è per difendere le star, che probabilmente comunque se hanno dei diritti è giusto che li prendano, ma siamo, la liquidazione erano delle cifre che andavano a tutti gli artisti, e quindi per quello che ci riguarda gli artisti più noti nel nostro caso ci mettono la faccia per fare in modo che eventualmente ci sia un'attenzione, ma è per tutelare quelli più piccoli che stiamo agendo, per quello abbiamo sempre chiesto conto di questa liquidazione. Ora noi aspettiamo fiduciosi gli sviluppi, però insomma ci fa piacere sapere che qualcuno approfondisce una vicenda che, come tante altre in Italia, ecco, per quello volevo dire, si può uscire anche dall'ambito degli artisti, su tante cose l'abbiamo viste, su tante vicende che riguardano questo paese, questa città, si ha l'impressione che ci si guadagna di più quando le cose vanno male che quando vanno bene, per cui non c'è poi quell'attenzione e quella competenza a cercare di capire dove sono i veri problemi per risolverli. Si cerca un po' di dire vabbè, c'è un'approssimazione, vogliamo dire così, che mantiene in vita però degli interessi che tra gli artisti che maturano i diritti nel nostro caso e il fatto che poi questi, gli intermediatori di questi diritti a volte tutelano più i loro interessi che quelli degli artisti stessi, e questo non va bene. Noi siamo una cooperativa di artisti e siamo nati proprio per rendere questo passaggio fra raccogliere i soldi e distribuirli agli artisti in maniera trasparente, presentando i bilanci in tempi più rapidi, e quindi stiamo dando un contributo per quello che possiamo, non solo agli artisti, ma all'aspettativa di molti di noi di fare in modo che questo paese diventi un po' più uno stato di diritto. tra l'altro un altro aspetto, un'altra delle zone grigie di questa vicenda, oltre a questa questione dei soldi, riguarda anche un conflitto di interesse rispetto ai vertici del nuovo Imaje, che fa parte, insomma, non è una questione secondaria in questo paese. Il conflitto di interesse ha prodotto dei mostri, ha generato dei mostri che spesso ci siamo portati dietro per decenni e tuttora ne paghiamo le conseguenze. Ma infatti anche su questo siamo sorpresi, perché ogni volta che noi abbiamo segnalato che ci sembrava un po' debole questa parola nuovo davanti a un ente che comunque ha lo stesso direttore generale dal 2003. Sì. Senti, lo stesso direttore generale, l'ex consulente dell'ente legale è diventato il presidente ed è anche, come lui stesso dichiara, un prestigioso avvocato che comunque fa consulenze per produttori, agenzie, artisti, quelli che vengono chiamati gli utilizzatori, cioè quelli che poi devono pagare l'ente per aver riutilizzato quelle opere, perché questo diritto che noi tuteliamo è parente del diritto d'autore, infatti si chiama diritto connesso al diritto d'autore, ma nasce, matura ogni volta che un'opera viene riutilizzata in televisione, e siccome chi la riutilizza attraverso la pubblicità, attraverso gli ascolti, ci guadagna delle cifre, quegli artisti che l'hanno interpretata, sono stati pagati una sola volta e magari poi non hanno lavorato più per tutto l'anno, nel riutilizzare la loro opera percepiscono una piccola cifra che però, come dire, quando non lavorano fa la differenza tra una vita dignitosa e no. Quindi il fatto che il conflitto di interessi che dicevi tu a noi non è che ci preoccupava per un pregiudizio, ma perché è evidente che, come spesso accade in questo paese, se il controllore e il controllato a volte coincidono, ma scusa, ti piace vince facile. Senti Cinzia, per saperne di più anche rispetto alle vostre rivendicazioni, ci lasci i vostri riferimenti internet? Sì, intanto io voglio fare un appello agli artisti, sì, perché è chiaro che noi chiaramente diamo la nostra versione dei fatti, ma io invito gli artisti, gli attori, giovani, grandi, anziani, ad informarsi, perché ora che si può scegliere sui propri diritti, loro possono scegliere, per esempio per l'audiovisivo come attori, se iscriversi al 9 Imaje o ad Artisti 7607, che è una collecting, non è un'associazione ora, ma è una collecting accreditata di cui l'associazione storica fa parte, che tutela i diritti di questi artisti. Potete andare a vedere sul sito www.artisti7607.com, ci sono lì i contatti, ci sono i mandati di iscrizione, perché ora la legge dice che gli artisti possono esercitare questo diritto, quindi devono dare un mandato ad una collecting, se non lo fanno non sono tutelati. Quindi noi ci siamo battuti per ottenere questo diritto, ora esercitatelo artisti, per esercitarlo informatevi, e per quelli che non sono artisti diciamo che in fondo stiamo lavorando anche per offrire l'opportunità al pubblico un po' di seguire una vicenda che sembra un film, quindi non stiamo parlando solo di diritti, stiamo parlando di come funziona questo paese e di come anche noi nel nostro piccolo stiamo cercando di farlo funzionare in un modo che sostenga gli artisti che hanno meno possibilità, ma che offre anche al pubblico maggiori punti di vista, perché queste collecting possono anche in parte reinvestire, anzi sono obbligate, parte di questi soldi per far realizzare dei progetti. Quindi ci sta a cuore anche mantenere l'autonomia di questi fondi, per permettere magari al pubblico di vedere una serie di progetti che, se sono legati solo a meccanismi commerciali, a volte non possono avere tutte quelle differenze che invece potrebbero mostrare, visto che le storie di tutti, anche del pubblico che ci ascolta, ci sono a cuore. Noi siamo degli immaginatori, degli immaginifici, e quindi ci piacerebbe raccontare come si vede la realtà, e anzi invitiamo anche il pubblico a segnalarci delle storie. Bene Cinzia, io t'abbraccio, ci sentiamo presto. Sono andata lunga, come al solito. Un abbraccio a tutti. Ciao. Grazie Federico, salve a tutti. Ciao. Ed è tutto per Visionari di questa settimana. L'appuntamento è per giovedì prossimo, sempre dalle 14 alle 15.